Per prima cosa abbiamo voluto ospitare nel palazzo comunale, qui nella piazza coperta di Sala Borsa, gli striscioni delle quattro aziende in crisi, le quattro aziende della manifattura in crisi, perché vogliamo dare voce alle operaie e agli operai che lavorano in queste aziende, alle loro lotte e anche aprire un faro attorno all'impegno istituzionale e sindacale che vuole trovare una soluzione. Per noi la soluzione significa la salvaguardia di questi posti di lavoro, la continuità del lavoro che devono svolgere nella loro azienda, oppure una proposta industriale produttiva che allo stesso modo salvaguardi questa comunità di lavoratrici e lavoratori che fanno parte dei comuni dell'area metropolitana e anche del comune capoluogo. Voglio anche cogliere l'occasione per dire che entro l'anno mia intenzione, insieme all'assessore Colla e al presidente Bonaccini, di lanciare un'iniziativa dedicata agli stati generali dell'industria nel territorio bolognese, perché il nostro è un territorio anche forte e attrattivo, che sta vivendo un momento di grande cambiamento. Vediamo arrivare nuovi investitori, aprire nuove aziende e allo stesso tempo questa grande trasformazione della produzione del manifatturiero, come quella della moda o dell'automobile. Abbiamo tutte le condizioni per far sì che Bologna possa salvaguardare i posti di lavoro se ci sono investimenti e politiche che vanno in questa direzione. Ci sono tanti imprenditori e imprenditrici che avrebbero voglia anche di rilevare questa azienda. Dunque, nella tradizione anche della collaborazione, delle buone relazioni industriali di questa terra, noi non vogliamo non solo rimanere in silenzio, ma vogliamo rimboccarci le maniche per salvaguardare l'industria e dare all'industria il futuro. Per noi il futuro dell'industria significa che continuano ad esserci le persone che lavorano nelle aziende.